Wombat. Ma sono simpaticissimi i Wombati. Eccoci, evviva, evviva gli spottini Wombat, sempre più belli, sempre più tanti, c'è un sacco di movimento in queste settimane in cui la radio sta tornando davvero alla ribalta, stanchi di guardare videoconferenze, aperi di qua e aperi di là, e telegiornale e televisione, usare un pochino l'udito, come mi ha ricordato la carissima co-conduttrice Carmine qui accanto a me. È una cosa molto bella. Viva le radio libere, viva le radio pirate, viva le radio streaming, e viva i programmi radio, e viva Wombat, il nostro programma, la nostra radio preferita. 19.03 è la diretta di ogni giorno dalle 19 alle 21, anche se il martedì, per lasciare spazio alla garuffa Tango, saremo con voi fino alle 20.30. Noi chi? Sicuramente il vostro amatissimo Camicia, la vostra amatissima... Carmine, che ha appena aperto una bottiglia di vino. Effettivamente non bevo vino dal 10 marzo, quindi l'intento è quello di ubriacarmi, e ci vorrà anche poco, credo. Già al primo sorso sento un leggero giuramento di testa. Vediamo che succederà in questa puntata. Cin cin a tutte! È tutto vero, ed anch'io dal 10 marzo, perché avevamo l'ultima bottiglia lasciata da qualche mese fa. E fatemi bere infatti un sorso di... siamo andati in Salento, Negramaro. Cavolo, che buono. Con la stufa che ci riscalda la schiena, partiamo con la sigla. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. Per fare la vita meno amara. Basta la salute, che bello, tanto per cantare. Siamo qui infatti non solo per cantare, ma anche per raccontarvi un po' quello che succede in giro per il mondo in questo momento. E cosa volete che succeda, se non qualcosa legato al coronavirus? Sembra che tutto il resto non ci sia più, non ci sono più dissidi tra governi, insomma, in buona parte del mondo, e non ci sono più problematiche ambientali, non c'è più nulla, c'è soltanto il coronavirus. E coronavirus che qui in Italia sta cominciando a diminuire, ma dopo entreremo più nei dettagli quantitativi. E adesso volevo ricordarvi un paio di cosette. Prima di tutto, che se a un certo punto scompare la linea, non vi preoccupate, noi stiamo dirigendo dalla Val di Susa, e quindi tra un buco e l'altro probabilmente ci sarà anche un buco nella trasmissione, e potrebbe succedere che quindi per un minutino non sentiate più nulla. Vuol dire che ci si è bloccata la connessione e quindi dobbiamo rientrare in live broadcasting. Non vi preoccupate, torneremo e ci saremo. A proposito di bucherelli in Val di Susa, Carmine, ovviamente ci vuole dire subito una cosa, però io metterei, sì, continuiamo con Tanto per cantare, che allegro. Una notizia che abbiamo dimenticato lo scorso martedì di comunicarvi. Abbiamo letto in queste puntate le lettere di Nicoletta che spediva dal carcere, e il 31 marzo Nicoletta è tornata a casa dopo tre mesi passati alle Vallette. Abbiamo notizie tramite il suo compagno Silvano, e comunque continua a essere sottoposta a delle restrizioni molto rigide dei domiciliari, e avrà il divieto totale di comunicazione per i prossimi 9 mesi. Noi siamo molto felici di saperla a casa, sappiamo che gli aiuta molto, ma si riprenderà sicuramente, però ovviamente non c'è poco da festeggiare, perché tutte le persone che sono esposte al rischio di contagio in carcere senza nessun tipo di tutela da parte dello Stato, e ovviamente, e non solo, ma anche per tutti coloro che devono continuare a lavorare in una situazione problematica come questa emergenza sanitaria. Quindi da una parte una buona notizia, ma che comunque vuole continuare a sottolineare la situazione che avviene all'interno dei penitenziari. Grazie, grazie mille Carmine, e adesso manderei un super super super brano. Ringrazio Vassili Kropotkin per l'idea, buon ascolto, e poi rientriamo con una bella lettura di 2 o 3 minuti. Fabbriche e magazzini, riaprire i mercati contadini. In queste settimane di emergenza, tra le varie contraddittorie misure adottate per contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo visto chiudere senza troppi preamboli e nel nome della sicurezza sanitaria gran parte dei mercati contadini di tutto il paese. Sebbene siamo consapevoli che limitare al minimo spostamenti e assembramenti sia in questo momento necessario non solo per il governo ma soprattutto per la salute di tutte e tutti, troviamo incomprensibile la decisione di bloccare l'unica possibilità per la popolazione di accesso a un cibo locale, sano e genuino. La definizione di sicurezza alimentare, riconosciuta a livello internazionale e elaborata durante il World Food Summit del 1996, secondo la quale tutte le persone in ogni momento hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, che garantiscono le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana. Fermo restando che, escluso lo stato di emergenza attuale, il concetto di sicurezza alimentare venga continuamente violato attraverso la vendita e la somministrazione di alimenti sempre più poveri di nutrimenti e contenenti residui di sostanze chimiche nocive, si può oggi evidenziare con chiarezza come i supermercati siano luoghi ad alto rischio di sovraffollamento e possibile contagio. Chi lavora all'interno di essi non si è in nessun modo tutelato se non con scarse misure di prevenzione in cambio di stipendi da fame. La grande distribuzione organizzata si basa sulla delocalizzazione della produzione e fa uso di forza lavoro su ruote, nave ed aereo per commerciare e esportare il cibo merce, esponendoci ad alti rischi in materia di sicurezza alimentare. A fronte di queste considerazioni, che sosteniamo con forza anche al di là delle presenti situazioni emergenziali, pensiamo che tutte le esperienze pratiche concrete, quali mercati contadini, locali autonomi, gruppi d'acquisto solidale, vendita diretta da parte di piccole produttrici, siano l'unica risposta sensata all'approvvigionamento del cibo. L'autonomia e l'autodeterminazione alimentare di un territorio sono elementi fondanti del suo bagaglio di anticorpi per rispondere alle crisi e alle emergenze, per avere comunità resilienti in grado di far fronte a situazioni di difficoltà. Dipendere interamente dalla grande distribuzione per l'approvvigionamento di cibo rende i luoghi in cui viviamo fragili e vulnerabili e ci espone a tutti i rischi e gli imprevisti a cui è esposto il mercato stesso in situazioni emergenziali. Chiediamo quindi che in tutto il paese, rispettando le normative sanitarie predisposte dal Ministero della Salute, siano immediatamente riattivi i permessi per i mercati e per la vendita diretta dei prodotti contadini. Inoltre chiediamo che vengano rispettati i diritti delle lavoratrici e lavoratori del settore alimentare, che per pochi spiccioli sono obbligati a dover lavorare senza nessun tipo di garanzia e sicurezza. Crediamo anche che la condizione attuale, per quanto riguarda la produzione agroalimentare, sia causa ed effetto di un processo ormai consolidato che ha sottratto ai territori, in particolare quelli urbani, ogni capacità di rispondere in maniera autonoma ai propri bisogni primari, creando così uno stato di dipendenza totale all'interno del quale anche il cibo, risorsa essenziale della vita, diventa merce di consumo e non diritto inalienabile. Questo è il testo, il comunicato scritto dal movimento In lotta per l'autodeterminazione alimentare di Genuino Clandestino, che sta uscendo da qualche settimana. Ogni giorno alle 18 qua rifanno il conto. C'è chi canta sul balcone, c'è chi piange o morto. Ma da un metro di distanza, socio stato a cuorto. Un bel decreto pronto, chiuso in gabbia, quanto dura un giorno? Ogni giorno alle 18 fanno un bel discorso, per non lasciare la nazione in preda allo sconforto. Per i figli di nessuno non c'è padre nostro, il papa prega in streaming, anche l'urda ha chiuso il posto. Hanno chiuso il porto, no, te l'hanno chiuso in faccia, ora che sei tu la minaccia, e anche Schengen carta straccia. L'untore che ti piaccia o no sto giro, non arriva sul barcone, ma con gli sci e l'aperitivo. Dal tuo mondo che produce e che fattura, non in mezzo ai poveracci, per questo fa più paura. Tanta che rimpiangi pure quella dittatura, che schifavi fino a ieri e adesso sembra più sicura. Ma è nella tua natura cercare un altro colpevole, come chi va a correre e non rispetta le regole. Fai il video dal balcone, ti senti giustiziere, se hai tutto sto coraggio dai, vai a fare l'infermiere. Ogni giorno alle 18 fanno la diretta, questi artisti un po' annoiati dalla cameretta. Va bene che la noia uccide, ma suonare paracetamolo non vi curerà la polmonite. Esponiamo il tricolore, fieri di essere italiani. La D'Urso insegna a lavarsi le mani. Fiorello che ci invita a stare a casa anche domani. E Benigni legge il bollettino dello Spallanzani. Ogni giorno alle 18 qua rifanno il conto. E gongoliamo nel vedere che dà il culo il mondo. Per sentirci meno soli nella nostra stanza. Non conosciamo l'empatia, figuriamoci a distanza. Qui diminuisce il numero dei nuovi casi positivi. Insomma, ma parecchio, da 2000 a 1000, da 2005 due giorni fa a 1800 ieri, oggi 850 e qualcosa, così. Non so su cosa si basano bene questi numeri, ma sicuramente sono numeri confortanti, sembra che un po' il picco si è superato, e che l'hanno detto anche quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, pare ci stia avviando verso, verrebbe da dire il declino, ma anche verso la... la diminuzione ovviamente dei casi positivi, ed è una buonissima notizia. Poi siamo tutti ovviamente curiosissimi di vedere poi a che cosa sostituirà ovviamente la crisi sanitaria e quali saranno tutte le crisi successive, che crediamo che insomma saranno imminenti, da quelle sociali a quella economica. Comunque non ci abbattiamo, continuiamo a sbevucchiare un po' di vino. In effetti già il secondo bicchiere dopo quanto è stato? Quasi un mese senza vino. Abbiamo bevuto solo un po' di birrette, poi per fortuna le produzioni liquoristiche ci hanno salvato con il buon Mirto e il buon GNP della Val di Susa. Grazie, anzi, a chi ce l'ha regalato e a chi l'ha piantato, ovvio. Settimana scorsa, Carmine, se ricordo bene, abbiamo cominciato un giro per il mondo, cioè continuato il giro per il mondo che sta facendo Wombat nel raccogliere le vari aggiornamenti tra i vari paesi. Siamo andati molto in America con Bolivia, Messico, Stati Uniti, Canada, e abbiamo iniziato a raccontare anche dell'America, del Medio Oriente. Siamo stati anche in Portogallo, ti ricordo, grazie al contributo di Nix e Paul. E oggi continuerei sulla scia del Medio Oriente, passando la parola ad Alessandro da Israele. Siamo pronti a mandare il suo contributo? Ascoltiamo la Cecilia dalla Palestina. Esatto, sì, ho già preparato qui in regia Cecilia di Annalegra, che saluto tanto, una cara amica che è stata tanto in Palestina, ha scritto libri, scrive articoli molto interessanti, molto belli, e di quell'ultimo Palestina, la solidarietà dal basso al tempo del coronavirus, su Q-Code Magazine, andate a leggervelo, è veramente brava, e infatti in pochi minuti ha raccontato quello che succede in Palestina, e poi continueremo ovviamente con il Medio Oriente. Buon ascolto. Ciao a tutti e a tutti, e un aggiornamento sulla diffusione del Covid-19 dalla Palestina. È una situazione particolarmente complicata perché la Palestina vive già in una condizione di occupazione militare e di assedio per quanto riguarda i territori della Cisgiordania e la striscia di Gaza, e quindi l'arrivo della pandemia da Covid-19 si è andata ad inserire in un contesto già fortemente complesso. La popolazione palestinese è abituata ormai da decenni a chiusure, assedi, lockdown che generalmente sono imposti e sono di tipo militare, gestiti dall'apparato militare di occupazione israeliana. In questo caso il lockdown invece è stato disposto dalle autorità palestinesi. Il contagio in Palestina è arrivato a Betlemme il 5 marzo, portato molto probabilmente da un gruppo di turisti che erano ospitati in uno dei principali hotel della città, che è appunto una delle mete turistiche più popolari nei territori palestinesi occupati. Ai primi contagi le autorità hanno immediatamente disposto la chiusura di tutte le attività commerciali e l'autoisolamento per la popolazione, perché chiaramente preoccupata dal fatto di avere a disposizione strutture sanitarie del tutto inadeguate a gestire i numeri di un contagio di tipo pandemico. Si tratta di strutture sanitarie che sono già vessate da oltre 50 anni di occupazione militare e che quindi già in tempi di normalità non possono funzionare in maniera normale. Il concetto di normalità nella Palestina occupata è davvero molto distante dalla realtà. Al momento, ad oggi, 5 aprile, si contano 226 persone contagiate, di cui 23 nella striscia di Gaza e per il momento una sola vittima. Le più colpite in questo momento sono le principali città, dunque oltre a Betlemme, Gerusalemme, Ramallah, Qalqilia, Tulkarem. Ma il contagio, sebbene in modo controllato, si sta diffondendo. La situazione naturalmente rischia di essere drammatica se i numeri dovessero salire, proprio perché appunto le strutture sanitarie non sono in grado di rispondere a un'emergenza nei territori occupati della Cisgiordania, per non parlare della striscia di Gaza, dove ospedali e strutture sanitarie erano già al collasso. Ricordiamo che il 2020 era l'anno in cui, secondo le previsioni delle Nazioni Unite, la striscia di Gaza sarebbe diventata inabitabile già prima di questa pandemia. L'apparato di occupazione israeliano comunque prosegue con la sua normale attività, proseguono gli arresti, i raid, ci sono state notizie di pacchi alimentari confiscati in alcuni quartieri di Gerusalemme. Nei giorni scorsi, quando già il contagio si era diffuso nella striscia di Gaza, ci sono stati dei bombardamenti, e resta naturalmente allarmante la situazione all'interno delle carceri israeliane, dove centinaia di detenuti politici palestinesi continuano a trovarsi in questo momento senza alcun tipo di assistenza medica adeguata e senza forme possibili di distanziamento sociale. Ci sono tuttavia delle buone notizie: il popolo palestinese è appunto un popolo abituato agli assedi e a fare della resistenza a condizioni disumane una ragione d'essere. Ricordiamo che è un popolo che ha già vissuto lunghi periodi di chiusure e di assedi, come durante la prima intifada negli anni Ottanta, quando gli assedi erano imposti dalle autorità militari proprio per fiaccare la resistenza popolare della prima intifada, e la popolazione sperimentò lunghissimi mesi di chiusura all'interno di città e villaggi, sperimentando anche però incredibili forme di resistenza e di mutualismo conflittuale. Sono quelli gli anni in cui nascono i comitati di resistenza popolare, in cui dal basso la popolazione si organizza per sopravvivere a questi assedi, e quindi nascono orti urbani, ospedali autogestiti, scuole auto-organizzate nelle case e nei fienili. È tutta una forma di auto-organizzazione solidale dal basso che consentì alla popolazione di resistere davvero molto a lungo. E quindi non stupisce che già dai primi giorni di autoisolamento per il Covid-19 la popolazione abbia iniziato a riorganizzarsi in forme molto simili. Sono nate squadre di volontari e volontarie che sono al lavoro sin dai primi giorni, soprattutto nei tanti campi profughi interni alla Palestina occupata, per portare avanti quelle attività di prevenzione necessarie che lo Stato in condizione di occupazione farebbe più fatica a portare avanti, dunque attività di auto-organizzazione per disinfettare, ad esempio, in modo autonomo le strade per fornire cibo alle famiglie più bisognose. Si sono formate squadre di medici, psicologi, attivisti che hanno messo su una linea telefonica attiva 24 ore su 24 per fornire sostegno psicologico alla popolazione. Si è attivata una forma di solidarietà immediata dai piccoli villaggi lontani dalle città che per il momento sono risparmiati dal contagio e che stanno mandando nelle principali città frutta e verdura per sostenere la popolazione. Sempre nei villaggi le famiglie hanno messo a disposizione le case disabitate per chi dalle città dovesse andare a fare un periodo di quarantena. Gli alberghi hanno subito liberato e messo a disposizione le stanze d'albergo, mettendole appunto nelle mani dello Stato nel caso ce ne fosse bisogno. Ci sono state delle storie molto belle, come quelle di un piccolo imprenditore della città di Al-Khalil, Hebron, che è un calzolaio che subito ha riconvertito la sua fabbrica e che sta autoproducendo mascherine per tutta la popolazione. Si sta sperimentando un tentativo di autoproduzione anche per quanto riguarda i respiratori. Insomma, tutta la popolazione unita sta cercando di fare del suo meglio per rispondere a questa situazione, in condizioni appunto già di totale anormalità, di occupazione militare, di colonialismo, di insediamento, di assedio. Naturalmente i timori più grandi rimangono quelli di una eventuale diffusione del virus all'interno appunto dei campi profughi interni dove già le condizioni igienico-sanitarie sono molto precarie e dove immaginare il distanziamento sociale è impossibile e naturalmente per la striscia di Gaza dove se il contagio dovesse aumentare saremmo di fronte a una vera e propria catastrofe. Ascoltaci streaming, i podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro Evviva, evviva Wombat, evviva gli spottini e grazie mille ancora a Cecilia Dalla Negra per questo giornalistico e conciso e chiaro aggiornamento sulla situazione in Palestina. Dopo andremo a sentire anche chi sta in Israele, in Siria, in Turchia, in Egitto e continuando questo aggiornamento in Medio Oriente, arrivando fino all'India, quindi spostandoci ancora più a Oriente. Ovviamente un programma radiofonico non può non avere della musica spettacolare, tutto al chilometro zero e Carmine ci presenta il prossimo brano bellissimo. Il prossimo brano è delle nostre ormai carissime amiche Riciclette, che vi continuo a proporre ogni martedì nelle nostre dirette. Questa volta ho scelto una cover di Pino Daniele, riproposta da questo quintetto formidabile di autodidatte meravigliose, quindi mi quanto sono brave, buone e belle, amiche mie. Ma quando c'è la bocca piena, Carmine. E ringrazio la qui bellissima e dolcissima Carmine, che ha preparato una peri wombat veramente da paura, con pane integrale, spinaci, gorgonzola per me e toma piemontese per lei, del vicino, tutto condito con dell'ottimo vino Salento Negramaro. Al terzo bicchiere già si iniziano a sentire gli aromi nel cervello. E non si capisce perché abbiamo il vino salentino, dal momento che siamo in Piemonte, vabbè, non ci si può spostare, via. Esatto, ci piace spaziare fuori dalla regione anche quando siamo in quarantena. Ma io avevo l'idea di fare una cosa da live, super live adesso, se ingoi quel panino e tieni il microfono, vi canteremo, facciamo questo esperimento, perché il microfono non è proprio un panoramico, quindi secondo me era una gran cagata, però non è detto. Aspetta, perché è molto alto il volume. Stiamo andando in picco, ok. Prima di continuare il viaggio per il mondo ad ascoltare le testimonianze, dopo aver sentito quella della Palestina, sentiremo quella da Israele, e cantiamo un pochino. Allora, io dedicherei questa canzone al compleanno passato di Milena, scritta da Selene, interpretata da Carmine e Camicia. Va bene? Sì, no, tenete il microfono, così lo tieni qua a metà. E si chiama La Fiera dell'Est, che adesso è un'ipercoppe. Va pronunciata alla toscana, perché la scrittrice, la grebana, è molto toscana. Quindi mi raccomando, ovviamente il tema lo riconoscerete. Vediamo. Ok, mi minore. E one, e two, una, two, three. Alla fiera dell'est, che adesso ni per coppe, le penne lisce mio padre comprò. E venne il cassiere che batte le penne lisce, che al supermercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, che adesso è un'ipercoppe, le penne lisce mio padre comprò. E venne il camionista che portò al cassiere che penne lisce, che al supermercato mio padre comprò. E venne il magazziniere che caricò il camionista, che portò al cassiere che batté le penne lisce, che al supermercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, che adesso è un'ipercoppe, le penne lisce mio padre comprò. E venne il grossista che dette al magazziniere, che caricò il camionista, che portò al cassiere, che batté le penne lisce, che al supermercato mio padre comprò. E venne l'imprenditore che vendette al grossista, che dette al magazziniere, che caricò il camionista, che portò al cassiere, che batté le penne lisce, che al supermercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, che adesso è un'ipercoppe, le penne lisce mio padre comprò. E venne lo sfruttato che produsse per l'imprenditore, che vendette al grossista, che dette al magazziniere, che caricò il camionista, che portò al cassiere, che batté le penne lisce, che al supermercato mio padre comprò. E venne il mugnaio che macinò la farina, con cui produsse lo sfruttato per l'imprenditore, che vendette al grossista, che dette al magazziniere, che caricò il camionista, portò al cassiere, che batte le penne lisce, che al supermercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, e adesso un'ipercoppe, le penne lisce mio padre comprò. E venne il contadino che produsse la farina, che macinò il mugnaio, che produsse lo sfruttato, per l'imprenditore che vendette al grossista, che vendette al magazziniere, che caricò il camionista, che portò al cassiere, che batté le penne lisce, che al supermercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Le penne lisce mio padre comprò alla casa dell'est in due secondi. Le penne lisce mio padre buttò. Yes! Morale, le penne lisce anche in quarantena fanno caha. Grande Sele la Grebana, grazie. Non abbiamo idea di che di genere di volumi c'è stato, ma è stato un momento qua bellissimo, quindi non possiamo non andare con un po' di viaggio del mondo, quindi per riabbassare subito l'entusiasmo. Andiamo a sentire quello che succede in Israele, grazie, mi riprendo, vado a farmi una doccia nel frattempo. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro e vivo a Gerusalemme da febbraio. E non è facile spiegare com'è la situazione legata al coronavirus qua in Israele ed in Palestina, e proverò ad andare per gradi. In Israele, in seguito a un caos politico dovuto alle terze elezioni amministrative nel giro di un anno, l'ex premier Bibi Netanyahu a suo tempo, ovvero circa 2 settimane e mezzo fa, ha preso il potere nonostante fosse in minoranza all'interno dello stesso. Ciò ha causato agitazione all'interno del panorama politico israeliano e al contempo vi erano già diverse restrizioni su tutto il suolo, sia israeliano che palestinese. Va detto che lo Stato israeliano si è mosso meglio di tanti altri paesi nel mondo, ovvero che già 1 mese e mezzo fa tutte le persone provenienti dall'estero sono state messe in quarantena per 2 settimane. Quindi verso inizio marzo vi erano in Israele circa 90.000 persone in quarantena. Questo in teoria, perché nella fattualità non è sempre stato così, e questo può aver sviluppato, ecco, l'evolversi del contagio. E in Israele quindi siamo in lockdown da ormai direi 2 settimane e mezzo, anche se in realtà un po' ho perso il conto. In Palestina la situazione è un pochettino diversa, partendo da Gaza, dove paradossalmente, ecco, loro sono in quarantena da diversi anni, quindi ciò ha sicuramente agevolato la diffusione del virus. Ciò nonostante sono stati trovati alcuni casi all'interno della striscia. Due ragazzi palestinesi che erano stati in Pakistan poco prima sono risultati positivi, e Israele in teoria sta provando ad aiutare il fermarsi del contagio, perché potrebbe essere un'ulteriore strage in un contesto dove non ci sono le strutture mediche per le cure di base. Affrontare una crisi come quella del Covid-19 potrebbe risultare fatale. E ciò nonostante, ecco, vi è in atto una guerra tra alcuni membri del nuovo governo di ultradestra israeliano, che rifiutano di dare aiuto assistenziale a Gaza per quanto riguarda la fornitura di ventilatori e altri apparecchi, perché viene utilizzato come gioco politico per aver restituito i corpi di soldati uccisi nel 2014, eccetera. Quindi, ecco, l'inserimento di politica fattuale all'interno di una crisi sanitaria è estremamente grave e controproducente. In Palestina e West Bank, in Cisgiordania, la situazione è diversa. I primi casi sono ormai risalenti a più di 1 mese e mezzo fa, a Betlemme. Ecco, tutti i casi in Israele sono stati portati da turisti stranieri. Quindi, ecco, Betlemme, essendo un luogo molto importante per il cristianesimo, è stato indubbiamente il primo epicentro. Qua in Palestina. E se all'inizio si aveva molto ottimismo per come la situazione sarebbe stata gestita con Israele, grazie appunto alle misure molto strette imposte anche sulla popolazione israeliana, quindi il controllo elettronico attraverso GPS di tutta la popolazione israeliana e individuare quindi i movimenti dei malati di Covid e di chiunque si sia avvicinato a loro, nonostante queste misure che potrebbero inizialmente aiutare a contenere il diffondersi del contagio, vi è il grande problema dell'inabilità del governo di gestire la crisi con i religiosi, gli ebrei ultraortodossi che non riconoscono l'entità statale. Hanno continuato a riunirsi con matrimoni da svariate centinaia di persone, stesso discorso per i funerali. E il risultato è che, ecco, nonostante gli ultraortodossi siano solamente il 15% della popolazione israeliana, degli 8.000 contagiati ben 4.000 sono ebrei ultraortodossi. Quindi ecco, in Israele e in Palestina la situazione è questa. Il governo, diciamo, che tiene bene la situazione per quanto riguarda i cittadini israeliani e ebrei laici. Si avrà molta difficoltà a controllare la situazione con gli ebrei ultraortodossi e con gli arabi palestinesi, perché finché non si dà loro il pieno supporto e il pieno appoggio economico, finanziario e sanitario, sarà un problema che riguarderà non solo i palestinesi, ma tutte le persone che abitano questa terra. In realtà non proprio fino alle 21, oggi siamo fino alle 20:30 per fare insieme questo bel aperitivo. Intanto prosegue, mentre crescono da sotto i suoni, i rumori, le note di Vassili Kropotkin, il brano che abbiamo scelto dalla giornata di dall'album Il Tempo dei Lupi, MTA, sembra la prima traccia, se non erro. Vai, sì, sì, vai. Certo, cara Grebana, certo, cara dama, certo, caro gringo, dopo vi mandiamo il brano, lo estrapoliamo da questa cosa, dopo, no, c'è cioè, i diritti d'autore, mi dice Carmine. No, avevano solo da ascoltarci, mi dispiace, ragazzi. Ci hanno ascoltato, per questo chiedono che gliele mandiamo, capito? Sì, mi hanno scritto ora. Ne approfittiamo allora per salutare tutte quante, per salutare tutta la comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze, per salutare Vassili Kropotkin alias Sissi alias il meglio del meglio con quest'ultimo brano che avete sentito, per salutare di nuovo la Cecilia Dana Negra e Alessandro da Torino, che era in Israele però. Comunque da Milano. Da Milano. Vi sono arrivate milioni di mail, cara Carmine, chiedendomi di insulti e una sola facendo una domanda intelligente, cioè da dove era quel bellissimo brano che hai mandato all'inizio col tipo che fischiettava? Beh, quello lì era tratto da Un sacco bello di Verdone e la musica di Ennio Morricone. E sì, era proprio bella, era proprio bella. Poi abbiamo mandato il nuovo brano di vari rapper, eccetera, tra cui Ville il Peyote e altri. Abbiamo mandato il brano delle riciclette tratto da un album di Pino Daniele. Poi che cacchio si è mandato? Vabbè. E poi mi sono scordato di mandare però la sigla di Wombat dal Mondo. Quindi guarda, ve la mando subito così, pronti via, perché senza sigla non, le rubriche non hanno senso. E quindi Wombat dal Mondo. बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, ये बड़ी खबर हम देते हैं दर्शकों को। मुंबई में एक 40 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में ये कोरोना से छठी मौत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, मुंबई में एक 40 साल की महिला की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है और महाराष्ट्र में ये छठी मौत है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कोशिशें हो रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, बहुत कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करने पर ही फैलता है। और ये देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक 40 साल की महिला की मौत हो गई है और महाराष्ट्र में ये छठी मौत है। मुंबई में मौत हुई है महिला की, इलाज जारी था। Ecco, finita, evviva, evviva. Avremo anche infatti un contributo dall'India. Mandiamolo subito a questo punto. Mandiamo subito il contributo dall'India e poi torniamo in Medio Oriente. Ma sì, ma perché dobbiamo mantenere un filo logico? Mandiamo un po' come cazzo ci pare. India. From Punya Prakash, ci vuoi raccontare chi è questo ulteriore amico che ci manda un ulteriore contributo? È un compagno indiano che studia italiano a New Delhi e a cui abbiamo chiesto gentilmente di raccontarci che cosa sta avvenendo. L'audio è della scorsa settimana, quindi molte cose potrebbero essere cambiate. Cioè, potrebbe essere tutti scappati da Delhi, adesso Delhi è tipo una landa desolata. Buon ascolto, tra poco continuate a scriverci su WhatsApp per chi lo conosce e chi non lo conosce scrivete a Wombat, andate sul sito wombatnoblogs.noblogs.org e fate un po' voi. C'è una bellissima opzione per dialogare anche con noi adesso in diretta andando su un pad, lo trovate però dal sito che vi ho appena detto, dal blog di Wombat, lo ripeto, Wombat con la w.noblogs.org e insomma lì vedete sotto la radio al tempo del colera, qui trovate per interagire col Wombat durante le dirette, cliccate accanto, è scritto diretta Wombat, si apre un pad e infatti c'è qualcuno, Coso, che mi saluta, io gli rispondo subito allo stesso modo con un bellissimo yeah, ecco fatto. Quindi funziona, buon ascolto di questo contributo che adesso ci sopraggiunge invece dall'India. E questo è bello, ragazzi, questo è bello. Ciao a tutti, io sono qui a Dehradun, sono venuto qui prima del 22 marzo, il giorno in cui il governo indiano ha introdotto questo lockdown completo in tutto il paese. Allora, sono bloccato qui perché non posso ritornare a Delhi prima del 14 aprile, proprio è l'ultimo giorno di questo lockdown e vedo che la gente qui ha paura di questo avversario invisibile, cioè coronavirus, nessuno va fuori, noi rimaniamo sempre a casa. andiamo solo per comprare delle cose essenziali, altrimenti siamo sempre qui dentro casa. E io ho due cugine carinissime, io passo le mie giornate con la famiglia di mio zio materno e ogni sera giochiamo a badminton. Io a volte insegno alle mie cugine perché la loro scuola è chiusa e quindi va bene, sono contento di passare una durata così lunga con la sua famiglia. E poi io vedo un altro lato positivo di questa situazione, cioè a livello personale io ho imparato come usare delle piattaforme online per l'insegnamento e quindi sto cercando di capire le dinamiche dell'insegnamento in digitale tramite web. E va bene, è così che passo le mie giornate e poi spero che questo momento difficile passi subito e la vita ritorni come al solito. Va bene, grazie. Un momento di serietà ora, per favore, per comunicarvi che lo scorso venerdì 13 marzo è stata trasmessa su Canale 5 la nuova diretta serale di Amici di Maria De Filippi, che è giunto quest'anno alla sua, pensate, 19esima edizione. Durante la puntata però è risultata assente la componente principale della nuova giuria. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che per rispettare il suo isolamento dovuto al coronavirus non ha potuto partecipare. Quindi per tirarle sul morale le dedichiamo questo pezzo. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Che ho stasera dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce non si butta. Ai miei pensieri, a come ero ieri, anche per me. E questo schifo di canzone non può mica finire qui, manca giusto dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. è arrivato il momento, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, della rubrica carne, mangiare bene. Con quella faccia schifata. Si è appena scofanati in mezzo gorgonzola. Comunque, l'altra volta eravamo rimasti a quali erano tutti gli aspetti che aiutano un pochino a dormire meglio, a stare meglio, a vivere meglio grazie al cibo, in questo periodo in cui è abbastanza fondamentale il tempo che passiamo a cucinare, a mangiare e a comprare vari generi di prima necessità. Oggi invece, oggi continuiamo quel percorso, forse capendo un po' meglio quali sono le combinazioni giuste. Ci vediamo, improvviso un pochino, sempre seguendo questo fil rouge, siamo partiti dalle tecniche per contrastare la paura, per vivere al meglio, abbiamo parlato dell'importanza della stagionalità e della vitalità dei prodotti. E ora sì, volevo proporvi volevo parlarvi, aprire una parentesi un po' sul pH e sulla possibilità di integrare anche per un breve periodo una dieta di tipo alcalino per evitare il rischio di acidosi dovuto magari a una dieta sbilanciata in questo periodo a causa dell'eccesso di alimenti, di sostanze acide e soprattutto dovute al fatto che molti di noi sono più sedentari del solito. Quindi suggerisco di provare, di sperimentare questa possibilità. La dieta alcalina parte dal presupposto che il nostro organismo è una macchina perfetta e che per funzionare bene ha bisogno di un'omeostasi, quindi di un equilibrio. Secondo questa teoria, per ottenerlo è bene agire intanto sul pH del corpo, che a causa delle nostre abitudini di vita e alimentari è più delle volte sovraccaricato da un'acidità eccessiva. Quindi provare a riportarlo ai giusti livelli, ovvero quelli che sono leggermente alcalini, per evitare che le cellule sane possano degenerare o il sistema immunitario, e quindi aumentando la possibilità di batteri e di germi di proliferare. Come farlo? In modo molto semplice, cercando di mantenere il pH del sangue corretto e naturale proprio attraverso un'alimentazione equilibrata. Una breve parentesi su che cos'è il pH: è proprio quell'unità di misura con la quale viene stabilito se è un liquido organico, che sia il sangue, che sia l'urina, è acido basico. Quindi se in base ad una scala che va dai 0 ai 14 ha un valore più basso di 7 risulta acido, se è più alto risulta alcalino, se invece pari è neutro. Quando riscontriamo una situazione di acidità, significa che vi è un'alta presenza di ioni idrogeni all'interno dell'organismo, e la presenza di questi ioni idrogeni a lungo andare può portare alla comparsa di veri e propri disturbi, a una degenerazione cellulare, a intolleranze alimentari, disturbi di varia natura. L'accumulo di acido all'interno del nostro corpo può essere originato da cause diverse, ci soffermiamo comunque più che altro sull'alimentazione non equilibrata. Sottolineiamo che esistono degli alimenti che noi consideriamo acidi proprio per il sapore, ma che in realtà all'interno del corpo si trasformano in alcalini. Tra tutti l'esempio è quello del limone, in cui effettivamente è un alimento acido, ma questi acidi di partenza vengono trasformati in carboidrati alcalini, quindi basici, grazie agli enzimi della saliva, e quindi sono utili all'organismo. Per cui non possiamo definire un cibo acido da un cibo alcalino in base al sapore. Diciamo che la maggior parte di cibi acidi, cioè di ingredienti acidi, sono innanzitutto lo zucchero bianco, il caffè, la farina 00 e quindi tutti i suoi trasformati, i cereali raffinati, gli agrumi, ad eccezione appunto del limone, pepe e peperoncino. Quindi se vogliamo sperimentare per un periodo, magari proprio in questo periodo in cui siamo più sedentari, facciamo meno attività sportiva e mangiamo di più, e magari per sovrastare la noia ci attacchiamo un po' al cibo, e di lì vedi puntata precedente, abbiamo parlato proprio di questo tema, innanzitutto evitare almeno per un mese i cibi che vi ho appena elencato. Possiamo sostituirli con tutti i condimenti possibili e immaginabili, tutte le spezie, a parte appunto il pepe e il peperoncino, qualsiasi tipo di erba aromatica, origano, timo, maggiorana, alloro, rosmarino, menta, basilico, anche se basilico ancora non è presente nella nostra terra, aglio, cipolle, a piacere, possiamo utilizzare l'aceto, il vino, di mele, burro e olio. Possiamo, allora, diciamo che il panorama della nutrizione è molto vasto e anche complesso. Ci sono tante teorie e spesso si discostano anche abbastanza le une dalle altre. Per questa breve rubrica ho cercato di raggruppare un pochino di contenuti per dare delle risposte semplici e alla portata di tutti. Intanto, di nuovo, nonostante abbiamo fatto una puntata intera su questo, ribadisco che la priorità è un alimento che sia vitale, quindi di un circuito di fiducia, un circuito sicuro, di produttori che conosciamo, che non utilizzano nessun tipo di sostanza chimica durante il processo di coltivazione, di crescita, di raccolta e di confezionamento del prodotto, che sia vegetale o animale. Questa è la priorità. Detto questo, possiamo sperimentare una colazione salata, comunque sperimentare è bello, anche se siamo abituati al solito croissant col cappuccino, proviamo una volta ogni tanto a fare qualcosa di diverso. Io propongo una colazione salata, per esempio con un buon pane fatto in casa, con lievito madre, con farina non raffinata, o se non è possibile farlo in casa rivolgendosi comunque anche a dei forni locali che ci danno questa possibilità di reperire un tipo di prodotto così, qua nel frattempo delirano dalla regia. Io ricordo comunque che sto bevendo del vino dopo un mese che non lo bevevo, quindi in questo momento essere seria mi risulta un po' difficile, ma ci provo, devo, tra l'altro sto parlando di dieta alcalina che ho rispettato, per un mese non ho sgarrato neanche un po' sino ad oggi. Quindi dalla colazione ve la propongo salata, quindi con un buon pane, magari tostato per contrastare gli effetti del lievito, con un po' di sale, un po' d'olio e magari un po' d'aglio per fare una sorta di bruschetta. Per chi invece non ce la fa a mangiare salato, allora magari si può pensare a un pane sempre tostato con del miele o della marmellata fatta in casa con poco zucchero. Lo spuntino di metà mattina garantito, possibilmente frutta o se no yogurt. Fare lo yogurt in casa è facilissimo. Camicia, non mi mettere fretta, adesso spiego come si fa lo yogurt fatto in casa. Allora, se abbiamo la fortuna, se avete la fortuna come noi, per esempio, di avere il vicino che è un allevatore, vi fate dare il tutti, no? No, vabbè, insomma, però ormai ci sono anche tanti... No, non ridere! Ci sono... Magari non hai proprio il vicino, però ci sono alternative al supermercato anche per l'acquisto del latte. Per esempio, ci sono tante casottini per prendere il latte alla spina. È vero, ce ne sono tanti. Quindi, trovare un latte di qualità... Lo si fa bollire, no, ti prego, mi fai troppo ridere così, non riesco a stare sul pezzo, per favore. Allora, si fa bollire il latte, far bollire il latte vuol dire proprio vedere che fa le bolle, forma la panna, spegnere il fuoco una volta portato a ebollizione, aspettare circa 15 minuti che scenda di grado e deve praticamente arrivare a una gradazione tra i 37 e i 40 gradi. Se non abbiamo il termometro a casa e non possiamo andarlo a comprare perché dobbiamo restare a casa, c'è una cosa facilissima da fare, cioè infilare il dito dentro, contare fino a 10 secondi. Se entro quei 10 secondi il dito non scotta, però comunque rimane caldo, vuol dire che la temperatura è quella tra i 37 e i 40 ed è quella proprio che ci interessa lì, in quel momento, per aggiungere un vasetto di yogurt che avrò comprato. Mescolo il tutto, ripongo il contenuto in dei barattoli, li avvolgo dentro una coperta di lana, degli strofinacci, l'ideale è proprio poi mettere tutto dentro una scatola di cartone, li lascio 12 ore, quindi tutta la notte a riposare, il giorno dopo ho il mio yogurt. Da lì in poi non dovrò più comprare lo yogurt perché l'ho già fatto, quindi mi devo ricordare di mantenere da parte lo starter, quindi un 25 ml, un vasettino dello yogurt, ormai autoprodotto per riprodurre il procedimento. Probabilmente non si è capito niente, ma potete, se volete avere maggiori informazioni e maggiori dettagli, scrivere le vostre domande sul pad. E quindi siamo arrivati, siamo solo allo spuntino di prima mattina, è inutile che mi dici di tagliare. Poi pranzo e cena, importantissimo avere un piatto di verdura cruda e un piatto di verdura cotta. Perché? Perché da una parte la verdura cruda ci garantisce di avere tutte le riserve di vitamine e di minerali essenziali all'organismo, dall'altra parte il nostro stomaco, che spesso è affaticato perché appunto abbiamo uno stile di vita che non è propriamente sano ed equilibrato, lo stomaco è l'organo più freddo del nostro organismo, che prende in prestito dagli altri organi il calore, e quindi noi l'aiutiamo con un cibo che sia anche cotto. Per cui una verdura cruda, tipo un'insalata, e una verdura cotta. E poi sempre importantissimo separare, per questa fase, per sperimentare la dieta alcalina, separare il carboidrato dalla proteina. Quindi se mangerò il carboidrato a pranzo, mangerò la proteina a cena. Quindi un piatto di verdura cruda, un piatto di verdura cotta e un carboidrato a pranzo, un piatto di verdura cruda, un piatto di verdura cotta e una proteina a cena. Di nuovo lo spuntino di... insomma, della merenda potrebbe essere della frutta secca, mandorle, noci, semi di girasole, o frutta fresca o frutta disidratata, tipo fighe, albicocche disidratate e quant'altro. Avrei molto di più da raccontarvi, ma vi lascio in attesa per la prossima puntata. Aiuto! E mangiare solo schifezze, vi lascio immaginare. E riguardo al prossimo, comunque molto chiara, molto importante, molto utile. Riascoltate il podcast, che da stasera verso le 10 o comunque da domani sarà sul sito wombat.noblogs.org, mi raccomando. E ascoltatevi la prossima bella canzone di Gerardina Trovato, Sognare Sognare. Vuoi dire qualcosa riguardo anche a lei? È una di noi. Andiamo. Piedi nudi. E bravo, la Gerardina ha trovato alle 20:12 sulla diretta Wombat giornaliera. Vostro Camicia con la vostra Carmine hanno gli ultimi quanti? 18 minuti insieme, perché poi lasceremo la linea alla Garuffa Tango. Più che virus e coronavirus e radio ai tempi del coronavirus, stavo notando che, stavo leggendo un po' di notizie, sembra radio ai tempi del karma o del contrappasso, perché stavo leggendo i numeri, come ogni giorno sapete aggiorniamo un pochino i numeri a giro, e i paesi che più avevano bofonchiato che erano tranquilli e che tutta questa roba era una cazzata e che non c'era da aver paura, adesso stanno volando proprio in quantità con dei numeri nuovi positivi veramente alle stelle, insomma, da Trump a Bolsonaro a Johnson a Boris Johnson non è che sono messi Trump bene. È stra positivo. No, Trump non lo so, ma Boris Johnson sicuro, quindi probabilmente anche Trump, visto le loro storielle d'amore e i loro sotterfugi. Infatti gli Stati Uniti sono a 380.000, che sono praticamente quasi esattamente il triplo dei casi positivi italiani, che sono 135.000, Spagna nel mezzo con 140.000, la Germania si avvicina a 2.000 con 105.000, poi la Francia, Cina che ormai è ferma con il primo giorno con zero casi, zero morti, Iran, poi UK, Turchia, Svizzera, Belgio, Olanda, Canada, eccetera eccetera. Infatti vi raccontavo, a parte Trump, a parte Bolsonaro, a parte Boris Johnson, visto che abbiamo parlato prima di Israele, vi volevo aggiunta ora questa notizia che fa abbastanza ridere nella sua tristezza. Parla proprio, l'ho letta su gaynews.it, Israele positivo, il ministro Litzman aveva detto che il Covid-19 è castigo divino per l'omosessualità. In marzo aveva definito il Covid-19 una punizione divina per l'omosessualità, nello spiegare l'origine della pandemia come il rabbino sefardita Meir Mazuz, che l'aveva invece correlata ai Pride. Ma il primo aprile è risultato positivo al virus insieme con la moglie, come anche rilevato in un tweet da Alfonso López Tena, ex deputato del Parlamento di Catalogna, ma che c'entra? È collaboratore di varie testate, anche, tra cui Business Insider e Jerusalem Post. E pare insomma che si sia infilato il rabbino e ministro israeliano della salute Litzman, che è anche il capo del partito ultraortodosso Agudat Israel, ha sistematicamente violato le linee guida del distanziamento sociale del suo stesso dicastero, partecipando a riunioni di culto e ha messo a rischio contagio anche numerose autorità del paese, a partire dal primo ministro Netanyahu, che non ci avrebbe dato fastidio. Comunque sì, un altro che si somma alla lista, alla lunga lista degli imbecilli che vengono fuori. Riunioni di culto. Sì, no, infatti non andiamo a scavare sotto quell'humus, a indagare sotto quell'humus. Detto questo, direi che, visto che abbiamo poco tempo, abbiamo ancora qualche minuto di contributo dalla Turchia, poi vi saluteremo, manderemo un paio di brani pianistici di tango in modo da lanciare proprio la serata di Garufa per voi che siete da soli, in coppia, in gruppo, insomma, per ballare dall'8:30 in poi. Direi che andiamo con Medio Oriente parte 2, che parte 1 era settimana scorsa. In Turchia il ministro della salute non comunica le città, quindi 947 casi esistono, ma non sanno i cittadini in Turchia dove sono questi 947, figuriamoci per 21 morti. Ci sono una serie di misure prese stile italiano molto velocemente, da in realtà settimane, che è disinfettazione dei mezzi pubblici, disinfettazione delle scuole in grandi città, è un lavoro in atto. In questi giorni ovviamente è diventata ancora più forte, e al di là di questa è una soluzione pratica, e le misure sono diventate abbastanza severe, tipo le scuole d'obbligo e le università sono chiuse in generale fino a 3 settimane, è attivo l'insegnamento didattico a distanza, e chiuse ovviamente tutti i locali legati all'attività notturna, i ristoranti sono chiusi, possono fare soltanto trasporto, da sport. E poi ci sono una serie di limitazioni. Da ieri il Presidente della Repubblica ha invitato i cittadini che hanno più di 65 anni di non uscire di casa, tuttavia questo weekend da Istanbul abbiamo visto lungo la costa del Bosforo centinaia e centinaia, forse migliaia di persone a pescare, a creare code in macchina, un discorso di cui si lamentano ovviamente gli amministratori locali, perché i cittadini non sembra che rispettano le misure prese. E due ondate hanno colpito, secondo me, notevolmente il paese. Uno, il famoso ritorno dal pellegrinaggio di Mecca. Circa 2500 fedeli sono tornati in quella zona, in quel luogo, in quel lavoro di grande incontro, di grande mescolamento, no? Tutte persone si muovono insieme, pregano insieme. Il rischio era altissimo, sono stati messi in isolamento in condizioni terribili, in due dormitori ad Ankara. Sono stati due, tre dormitori, sono stati piazzati a gruppi, però nelle camere vivevano in 4-5, quindi se c'erano delle persone che erano positive probabilmente hanno infettato anche gli altri. In effetti sono stati poi a protestare, provare a uscire, proprio scene imbarazzanti. Poi alcuni addirittura hanno evaso affittando pure pullman, cercando di scappare e tornare a casa loro. Quindi questo, il ritorno dei pellegrini non è stato per niente gestito bene. E poi la Turchia ha deciso di portare, soprattutto dalla Germania, circa 4.000 suoi cittadini che erano all'estero per motivi turistici o per motivi di lavoro, e questi teoricamente sono in autoquarantena, però tutto da verificare se rispettano bene o no. E quindi la zona europea, dato che è colpita alla grande, possiamo dire che un'alta possibilità che c'è tra queste persone che rientrano dall'Europa che siano positive. E un altro discorso ovviamente legato è la condizione carceraria. In Turchia ci sono 375 centri di detenzione, più di 300.000 detenuti esistono, 2.500 di questi sono bambini, e un altro numero molto interessante, 1.333 sono malati, 457 sono in condizioni gravi. L'altro giorno il ministro della giustizia si è presentato davanti alla telecamera dicendo che stanno lavorando per un cambio legislativo che permetterà ad alcuni carcerati di uscire e vivere in semilibertà in condizioni domiciliari, eccetera, però è un cambiamento legislativo che dovrebbero ancora realizzare nel Parlamento. Ovviamente la criticità, il punto più difficile di gestire il coronavirus in Turchia è legato alla città di Istanbul. Stiamo parlando di una città di 17 milioni di persone, e ovviamente un contagio del genere, un qualsiasi tipo di contagio a Istanbul sarebbe molto molto molto pericoloso, si diffonderebbe il virus molto velocemente, e questo ovviamente è la grande preoccupazione. Poi andando verso il Libano e anche Palestina e Israele, leggo su Arez in inglese che i primi contagiati a Gaza, che questo è molto preoccupante perché sappiamo bene è un territorio dove mancano le cose essenziali, figuriamoci dal punto di vista, possiamo immaginare dal punto di vista sanitario in che stato è. Per quanto riguarda Israele, che già da due settimane Netanyahu aveva dichiarato l'Israele chiuso a tutti e non, praticamente non si può né entrare né uscire da Israele, e questo è anche ha portato un po', diciamo, di polemica per quanto riguarda il comportamento da parte di Israele nei confronti della popolazione dei territori occupati. Tra questo lo scrittore israeliano Lievi aveva parlato in una intervista dicendo che ora che da due o tre giorni siamo in quarantena, qualcuno ha considerato questa situazione fine del mondo. Immaginiamo in che situazione vivano i palestinesi già da anni sotto l'assedio degli israeliani. Thank you. tutte queste lettere lontane. Interessante. Boh, sarà interessante conoscerlo un giorno. Lo lasciamo la linea al Garufa Live tra 4-5 minuti. Vi salutiamo con un altro brano, sempre degli Arestango, il gruppo argentino di Javier Girotto di tango. Favolosi, favolosi. Li sentì al Pinocchio Jazz, al Circolo Vie Nuove, sarà 15-20 anni fa. Pianzi come un bambino. Sono da Dio. Javier Girotto, secondo me, è un genio col suo sax soprano. Vi salutiamo con la luna, ci sentiamo martedì prossimo. Domani invece ascoltate Radio Contado, mi raccomando, un po' della voce della ruralità su Wombat Radio, dalle 2:30 alle 4:30, sempre su queste frequenze e su questo streaming. E beh, Camicia vi saluta e va anche a magnà. Buoni propositi, buon ascolto e soprattutto buon silenzio. Ciao.